fra tante cure che fien di re, Irene sarà mia sposa. Al fin il Tamerlan la femma antiene, e se gli spiace Asteria, abbraccia Irene.